got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 sulla migrazione e l'identità delle persone italiane che talvolta hanno le radici altrove. Stasera parliamo con una regista italiana, adesso ci racconterà qual è la sua opera che ha presentato con grande successo qualche giorno fa a Milano e stiamo parlando di Medin Paulos. Buonasera. Buonasera. Parliamo con lei del suo film. Lei è una regista. Asmarina è questo film documentario che è stato presentato al 25esimo Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano. Tra l'altro ha avuto un buon successo. Ha avuto un successo inaspettato. Abbiamo fatto due proiezioni, entrambe piene, con la prima, e ne abbiamo fatto in settimana un'altra extra festival perché la gente continuava ad arrivare. Ne faremo sicuramente altre su Milano e su tutto il territorio italiano e all'estero. Raccontiamo un po' di lei e di questo film, partendo proprio dalla pellicola. Come nasce Asmarina e di cosa parla? L'Asmara è la capitale dell'Eritrea, quindi Asmarina è una donna di Asmara, una ragazza di Asmara, ed esiste questa canzone cantata da questo italiano che la cantava negli anni 50 e insomma abbiamo preso spunto da questo. In realtà il film però prende spunto da anche altre cose, ad esempio un libro fotografico fatto da due fotografi ben 30 anni fa sugli stranieri a Milano, infatti il titolo era Stranieri a Milano, e se apri questo libro fotografico ci sono un sacco di foto di eritrei che sono i nostri genitori. Quindi quando noi abbiamo aperto il libro ci siamo ritrovati tantissimo, abbiamo trovato i nostri genitori o parenti e amici vari o noi da bambini, e continuo a dire noi perché il film l'ho fatto insieme ad Alan Maglio, che è co-regista di Asmarina, e sia io che lui siamo fotografi di formazione e di professione e abbiamo questa passione per la genealogia, per gli archivi fotografici. Ci siamo conosciuti un po' così, andando in giro per archivi e spulciando nei cassetti, andando a cercare fotografie, materiali che sono spesso impolverati, però da quello siamo partiti per cominciare a raccontare le nostre storie. Quindi voi, insomma, insieme, un'italiana di origine eritrea, un italiano, avete deciso di riaprire un po' i diari di famiglia, della sua famiglia? Sì, di tante famiglie in realtà, a cercare tra i cassetti, tra le foto delle famiglie di eritrei etiopi a Milano e non solo, ma anche negli archivi istituzionali. Tantissimo, c'è cioè tantissimo materiale del periodo coloniale, ma anche molto più recente. E sono tutte storie che non vengono mai raccontate. Io sono cresciuta a Milano, in Italia, e insomma il messaggio principale è sempre stato: la tua storia non è abbastanza importante da essere raccontata. Accendi la TV, non ti vedi rappresentato. Apri una rivista, non ci sei, non c'è nessuno che ti somiglia. E quindi la cosa migliore è iniziare da te a raccontare te stesso, anche se non c'è la mia storia nel film, c'è la storia di tanti altri, che però può essere presa come spunto, un po' per ritrovarsi, un po' per raccontare ancora altre storie, perché sono tantissime. Raccontare una comunità intera non è semplice. Il film è pregno di cose, sono tanti filoni che si possono seguire e tante persone diverse, diversissime si ritrovano infatti. E allora sentiamo proprio un contributo dal film. La canzone è intitolata Asmarina. Asmarina sarebbe l'Asmara, sarebbe la capitale dell'Eritrea. Asmarina, Asmarina, sei in bellezza da regina. Quando noi eravamo in Eritrea, immaginavamo l'Italia quasi come se fosse una nazione paradisiaca, queste città grandissime, piene di luci. Questa è mia figlia, questa è figlia di mio fratello. Questa è interessante, questa è bella, questa qui è molto bella. Io andavo in giro tutti i giorni, mattina e sera, con la macchina fotografica al collo. E io sono questo, in un bel ragazzino ero, non è mica, mica scherzo. Volevano entrare nel territorio, partecipare, non solo sopravvivere, a far parte della comunità e far parte di Milano. Vengo più vista io diversamente, nata e cresciuta qua, confronto l'italiano che è nato e cresciuto lì e parla il tigrigno, lui viene visto eritreo, io vengo vista come una straniera. Una cosa che mi aveva colpito è che avevano organizzato dei corsi di italiano per le nonne eritree. Questo posto era uno enorme, pieno di teste nere, facce nere, tutti eritrei, pensavamo di essere in Asmara, pensavamo di essere a Kerer, pensavamo di essere a Massawa, e pensavamo di essere in Eritrea. Probabilmente senza di noi l'Italia non sarebbe quella che è oggi, e noi non saremmo quello che siamo noi oggi alla fine, no? Anche il nostro stato stesso. Asmarina, Asmarina. Questo italiano perché l'ha cantata? Come mai amava così tanto questa Asmara? Perché è bella, è stupenda. Allora io poi un giorno ve la faccio sentire. Medin Paolos, questo è un film appunto di una lunga, frutto di un lungo lavoro di ricerca. Quanto è durata questa ricerca? Circa un anno e mezzo di riprese e ricerca. In realtà io e Alan ci conosciamo da una decina d'anni, anche un poco più, e quindi la nostra ricerca va molto più indietro, ma il lavoro un anno e mezzo circa. E poi molte ricordi anche personali, che ricordi che affiorano dalle foto, no? E che odorano anche di caffè, di cardamomo. Ci sono anche dei piatti, delle ricette in questo film? Ci sono, sì, cioè si vede il famoso zighini che tutti conosciamo perché lo mangiamo nelle zone di Porta Venezia per chi abita a Milano. Ma in realtà la cucina eritrea etiope è molto molto più variegata. Ci sono addirittura delle carni tipo tartar, quasi crude, no? Che sono mischiate a delle spezie di cui il nome qua non esiste neanche, che sono mischiate poi con dei burri, che sono con un burro nostro fatto a mano, che si chiama tesmi. Sono cose speciali che non le trovi neanche nei ristoranti qua, però se hai un amico eritreo, un amico etiope, poi magari queste cose le conosci. C'è un piatto, una ricetta che le ricorda la sua identità di milanese o di milanese di origine eritrea? Ma forse quella che mi viene più semplice da dire è proprio il caffè, proprio perché questa relazione tra il caffè italiano è importantissimo, il caffè eritreo etiope è altrettanto importante, altrettanto buono. E il risultato tra l'altro è molto simile, questa tazzina piccolina, no? Non è tipo quello americano nella tazzona grossa. Però il modo di berlo è assolutamente quasi opposto. In Italia è un one shot veloce al bancone del bar, in Eritrea e in Etiopia è proprio un modo per passare ore a chiacchiere al pomeriggio. La preparazione dura quasi una quarantina di minuti per fare solo il primo caffè, perché si inizia proprio dalla tostatura. Quindi sono due profumi diversi, due modalità diverse, ma in realtà ci sono delle correlazioni. Per me è sempre casa, sempre famiglia, sempre Milano e sempre Eritrea. A casa sua da piccola si respiravano, immagino, questo clima, e anche nel film ci sono diverse generazioni che si passano il testimone. Sì, io sono cresciuta qua negli anni 80-90, i miei genitori sono emigrati qua durante la guerriglia tra Eritrea e Etiopia nei primi anni 70. Le nostre case, intendo di Eritrea e Etiopia, erano a volte ridendo dico che il couchsurfing l'abbiamo inventato noi, Habesha, noi eritrei etiopi, perché tantissime persone uscivano dalla guerriglia e alloggiavano nelle nostre case per qualche giorno prima di continuare il loro percorso. Adesso ci chiamano i nuovi italiani, in realtà abbiamo tutti 30 o 40 anni per gamba, siamo qua da tantissimo tempo. In realtà si può ancora andare più indietro, perché ci sono eritrei misti italiani che sono magari stati espatriati negli anni 60, negli anni 50 e anche un po' prima. Le correlazioni Italia, Eritrea, Etiopia sono tante e affondano veramente le radici proprio nel profondo. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con Medin Paulus tra pochissimo. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Non so se ti chiami Cicilini o Zazà. Nata da smana, e sei un fior di beltà, fanciulla smarina, sei più bella per me, e ogni giorno alle tre suono e canto perché mi ricordo di te. Asmarina, asmarina, di bellezza sei regina. Bentornati a Indovina chi viene a cena. In sottofondo la musica di Asmarina, questa canzone degli anni 30, cantata proprio da Mimmo Carolei, un italiano d'Eritrea che celebrava con le sue parole la bellezza di Asmara, delle ragazze che la abitavano. Siamo questa sera con Medin Paulus, regista di questo film documentario Asmarina, che parla di un pezzo di Eritrea, ma direi anche di un pezzo di Italia. Si parla anche molto di queste nuove generazioni nate in Italia, che in alcuni casi però faticano ancora a sentirsi accettate, e magari invece quegli ultimissimi di ultima generazione sembrano non badare proprio alla differenza. Sì, sempre quasi la richiesta di spiegare perché sei qui, ci deve essere sempre un motivo, no? Dietro al tuo essere qui o al tuo parlare con un accento perfettamente italiano, però con un viso che racconta che sei di altrove. Però pian piano, insomma, sono percorsi lunghi di evoluzione, cambiamento culturale, ci arriviamo. Siamo italiani, quindi in queste cose siamo magari anche un pochettino lenti, tra virgolette, ma poi ci arriviamo e facciamo anche bene. C'è la storia del colonialismo italiano, rievocata da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa, anche nel vostro documentario. Sì, c'è anche lui, che tra l'altro è una delle prime persone che parlano nel film, non proprio la prima ma una delle prime. E lui ha la sua storia di ex militare, in realtà però se ci si fa caso, anche lui era un ragazzo quando in quegli anni là, era un giovane ragazzo, quindi ci ha raccontato quello che è stata la sua gioventù, né più né meno di tanti altri che hanno raccontato le loro storie nel film. Quindi ci interessava anche quel punto di vista. Questa parte di storia viene raccontata poco, il colonialismo italiano, molto poco, abbiamo problemi con la memoria in questo paese, ma non solo. Il suo punto di vista forse è quello che si sente di più. Abbiamo dato spazio agli eritrei, agli etiopi di dire la loro, però non volevamo non lasciare lo spazio anche alla parte di questo signore, che è importante anche la sua. Se ti chiami Cicilini o Zazà, sei nata da Asmara e sei un fior di beltà, fanciulla Marina, sei più bella per me. E ogni giorno alle tre suono e canto perché mi ricordo di te. E poi si vede Asmara, i bianchi vengono ancora chiamati Tilian, no? Storpiatura di italiani, sì. Poi c'è un quartiere, una zona residenziale dove i neri non potevano entrare. Sì, Asmara è stata un po' terreno di insomma, una prima forma di apartheid, come si dice anche nel film, che è quella che in parte ha ispirato l'apartheid che tutti conosciamo meglio, quella del Sudafrica. Questa zona dell'Eritrea si chiama e si chiamava Commistato, da Campo Cintato. Ci sono poi anche quelle interviste di quelle che possono essere definite le seconde generazioni al contrario, cioè figli di coloni cresciuti nel Corno d'Africa, rimpatriati dopo l'indipendenza, che si sentono asmarini però con la pelle bianca. Ce ne sono molti più di quanto noi non crediamo, asmarini. Io stessa ne incontrai un bel po' l'ultima volta che andai in Eritrea. Una signora in particolare in un paesino proprio fuori Asmara, lei bianca anzianissima, io nera, all'epoca molto molto giovane, ci incontrammo nel suo bar, io volevo mangiare, le parlai in italiano, lei mi rispose nella mia lingua d'origine, è stato un momento, alla fine mi diede un'amichetta milanese, quindi, ed eravamo in un paesino fuori Asmara. No, ho questo ricordo, ce ne sono tantissimi e sono eritrei. Sono eritrei bianchi. Bianchi, come io sono un'italiana nera. Ci fa la risatina, io mi accascio alla panchina, con un nodo nel canale che non scende e manco sale, intruffato di sudore. Asmarina, asmarina, son deciso stamattina. Ma vederti così bella, a me viene la tremarella, asmarina del mio cuore. Il vostro film documentario ha due scenari di fondo. Milano, lo dicevamo, con tutta la zona intorno a Porta Venezia, no? E poi a Bologna, perché a Bologna c'è stato per anni un raduno della comunità eritrea, no? Bologna è una città, forse la città più famosa, che anche se vai all'estero e la nomini, tutti conoscono Bologna. Magari Milano o Roma sfugge alla gente, ma Bologna la conoscono tutti perché è la sede dei convegni politici eritrei, lo è stata per tantissimi anni. Era proprio un ritrovo che tantissimi di noi si ricordano. Arrivavano tantissime persone, veramente migliaia di persone da tutto il mondo, letteralmente tutto il mondo, e quelli erano i momenti in cui parlare di politica, ma anche di trovarsi, era anche parte di fare la vita sociale, insomma fare festa, e durava parecchi giorni, e insomma tantissimi di noi che adesso sono 25 anni, 30 anni o anche di più si ricordano queste cose come pezzettini della loro infanzia. I nostri genitori lì andavano a raccontare, a parlare di politica. C'era una guerriglia in atto e le notizie dell'Eritrea o anche dall'Etiopia arrivavano lì, arrivavano proprio i politici, arrivavano i cantanti giù dal paese, arrivavano i guerriglieri. Era una situazione molto particolare, in mezzo, nel bel mezzo di Bologna, e i bolognesi insomma erano, in qualche modo ne sono stati testimoni. Lei è mai stata in Eritrea? È un paese che conosce? L'ho conosciuto prima attraverso i racconti dei genitori, ho sempre da bambina avuto la voglia e la curiosità di andare, anche perché proprio in infanzia avevo questo mito dell'Eritrea, ero convinta che se fossi tornata lì, se fossi andata lì, finalmente sarei stata a casa. Una volta che ci sono andata poi, in realtà non è stato così, perché comunque lì mi vedevano come una italiana. Qui mi vedevano come una straniera, lì mi vedevano come italiana. Si vede, cioè, anche se ho la stessa faccia delle persone di lì, comunque il modo, anche solo il modo di porti, di muoversi, di parlare, cioè, si capisce che vieni da fuori. Da lì in realtà poi ho iniziato il mio percorso identitario ed ho capito che insomma io sono una di quelle tantissime persone che vivono in mezzo, e va bene così, non c'è problema, non c'è bisogno di scegliere qua o là. Non ci vado da tantissimo tempo, ed è in parte è una scelta, perché riguardo, cioè, sono, c'è una situazione politica non proprio tranquilla, e quindi preferisco aspettare un po', mentre in Etiopia sono stata un paio d'anni fa e ci tornerei anche subito. Sì, lì c'è una situazione politica molto difficile e l'ondata lunga di tutto questo si vede anche in Italia. In Asmarina si parla anche delle storie dell'Eritrea di questi giorni, dopo anni insomma di guerra con l'Etiopia e soprattutto la fuga di molti giovani da una dittatura militare, ci sono ancora molti eritrei che scappano dal paese, che vengono anche a Milano. Qual è il rapporto con gli eritrei che scappano oggi? Dipende, io per esempio faccio parte di una catena d'accoglienza che cerca di dare un supporto a questi profughi che stazionano spesso a Porta Venezia e li mettiamo in relazione con i servizi che il nostro comune offre, quindi io ho un tipo di rapporto con queste persone, ho deciso che non voglio fare finta di non vederle, perché spesso è facile piangere sui nostri morti del Mediterraneo piuttosto che del deserto e facciamo finta poi di non vedere quelli che si sono salvati, perché quelli che arrivano qua sono quelli che ce l'hanno in qualche modo fatta, almeno sono vivi. Tanti altri sono indifferenti, altre persone magari hanno un po' paura, no? Perché comunque le braccia della dittatura eritrea arrivano ben oltre il paese, arrivano fino qua e la gente ha paura anche qua, ci sono conseguenze, ci possono essere ritorsioni. Sono cose abbastanza serie, quindi è una situazione abbastanza delicata. Una cosa molto bella è che di questa catena d'accoglienza, adesso c'è anche un comitato che si chiama Cambio Passo che se ne occupa, che è il risultato di questa catena d'accoglienza, hanno fatto e fanno parte veramente, è un gruppo molto molto eterogeneo, quindi ci sono in mezzo eritrei, etiopi, ci sono in mezzo persone immigrate qua negli anni 70-80, ci sono persone nate qua, cresciute qua, ci sono gruppi di italiani e si lavora insieme, perché alla fine se l'obiettivo è comune poi la modalità si trova. La cucina eritrea e quella etiopica, specialmente del nord, sono molto simili, a causa della storia condivisa dei due popoli. Le abitudini alimentari eritree variano a livello regionale. Negli altipiani l'ingera è la dieta di base, un pane piatto di tef, grano o sorgo, e viene mangiato ogni giorno dai tigrini. Quando si mangia, in genere i commensali condividono il cibo da un grande vassoio posto al centro di un tavolo da pranzo basso. Vi sono ammonticchiati numerosi dischi di ingera conditi con vari stufati piccanti. I commensali prendono con una mano un pezzo di ingera di fronte a loro, strappandolo da una forma e intingendolo nello stufato. Gli stufati che accompagnano l'ingera di solito sono a base di manzo, pollo, montone o verdure. Il berberè, una miscela di spezie che si compone di una varietà di erbe comuni ed insolite, accompagna quasi tutti i piatti. Tra gli stufati si ricorda lo zigni, con carne di manzo, Doro Zebi con carne di pollo, Alisha e Shiro, una purea di legumi vari. In pianura, a differenza che sull'altopiano, il piatto principale è il Gahat, un porridge a base di farina di grano. Un mestolo viene utilizzato per raccogliere la parte superiore, che è piena di berberè e salsa di burro e circondata da latte o yogurt. Un piccolo pezzo di pane viene utilizzato per raccogliere il sugo. Qual è l'atteggiamento che hanno avuto i suoi genitori rispetto alle sue ambizioni di regista e appunto anche di fotografa e per le cose che sta facendo? Non mi hanno mai né invogliato né ostacolato, cioè mi hanno molto molto lasciato fare questo proprio fin da piccolissimo. La cosa che, il messaggio che è sempre passato è tuo genitore, ho fatto la parte dura, in qualche modo ho seminato, no? Anche il solo fatto che il percorso di emigrazione l'abbiano fatto loro e io non ce l'ho questa esperienza, in qualche modo loro hanno fatto la parte pesante, in qualche modo io sto raccogliendo i frutti, quindi il meglio che posso fare è fare ciò che mi piace nel modo migliore. Asmarina, di bellezza sei regina, se ti vedo da lontano casca quello che ho in mano. Asmarina, guardo un po', tu ci fai la risatina, io mi accascio alla panchina, con un nodo nel canale che non scende manco sale, intuffato di sudore. Tengo un mazzolino di fiori, profumato come te, te lo voglio regalare. Forse non abbiamo incontrato neanche un timido sul nostro percorso, anche solo il fatto della canzone Asmarina. che potrebbe essere vista come una reminiscenza, cioè, o comunque un pezzo con un'aria un po' colonialista, anche se è stata cantata un po' dopo. In realtà poi quello che si vede nel film è l'effetto che fa a diverse persone, di diverse generazioni, e lì salta fuori tanta della comicità del film. Ed è molto interessante vedere quella parte lì in particolare. E adesso Smaina è un testo leggero, non è certo, però insomma tutta l'immagine della Bella Bissina un po' c'è anche lì, con un tono molto molto più leggero ovviamente. Caffè al cardamomo, ingredienti per due persone: un pugno di chicchi di caffè di buona qualità, due capsule di cardamomo, acqua, zucchero. Estraete dalle capsule i semi di cardamomo e macinateli insieme al caffè in un macinino o nel frullatore. Prendete un pentolino e metteteci tre tazzine colme d'acqua, due cucchiaini ben colmi di caffè aromatizzato e quattro cucchiaini di zucchero. Portate ad ebollizione la miscela, spegnete il fuoco, mescolate e rimettete sul fuoco. Ripetete altre due volte, in tutto il caffè deve bollire tre volte. Poi, a fuoco spento, lasciate riposare un minuto il caffè nel pentolino in modo che la polvere si depositi sul fondo. Versate nelle tazzine e assaporate il vostro caffè. Grazie per essere stata con noi, Medina Paulos, autrice e anche regista di Asmarina, questo film documentario che speriamo di poter vedere presto in sala. Ma speriamo, vi faremo sapere. Voi cercateci su Asmarina Project, sia su Facebook che nel web, e vi diciamo tutto. Grazie per essere stata con noi, buona serata. Buona serata. Grazie a tutti voi per l'ascolto, noi ci risentiamo sabato prossimo, buona serata a tutti da Valentina Furlanetto.